si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buon sabato cari ascoltatori. Nella settimana in cui le province hanno ventilato di spegnere i termosifoni contro i tagli che arrivano dal governo, i termosifoni delle scuole, vi racconteremo invece una storia in controtendenza, una provincia Macerata, una città dove le scuole puntano al cibo di qualità nelle mense scolastiche, un investimento, e cercheremo di capire di cosa si tratta. Universo Scuola 800 24 00 24, chiamateci anche per raccontarci le vostre buone notizie della settimana e poi iscriveteci sul profilo Facebook del programma Si può fare trattino Radio 24 o anche alla mail Si può fare radio24.it. Dalla scorsa settimana, ogni weekend, sabato alla domenica dalle 12 alle 13, Si può fare, manderemo in onda una delle storie che voi ci proponete proprio attraverso questi canali di contatto. Si può fare trattino Radio 24 è la pagina Facebook, andate, fatemi piace, siamo quasi 1000, oggi diventeremo sicuramente, siamo già 1000 forse. Se invece avete delle proposte per salvare l'Italia da tutti i suoi guai, chiamate alla segreteria telefonica 828 12 12 e lasciate la vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Le più belle le manderemo in onda soprattutto la domenica. L'appuntamento con Si può fare, non parliamo di crisi economica, non parliamo di politica, non parliamo di gossip. Dice, ma allora di che cosa parlate? Raccontiamo altre notizie, per esempio queste. Agrigento, l'ordine dei magistrati, demolite gli ecomostri sulla spiaggia, una notizia a cui è seguito dopo un boato di felicità da parte di tutti. La procura ha invitato il sindaco di Realmonte ad abbattere le strutture che deturpano il litorale di Capo Rossello. Si tratta di due immobili che da circa 20 anni ingombrano inutilizzati un tratto di spiaggia denunciati più volte da cittadini e Legambiente. Ebbene, insomma, invece qualche giorno prima lo stesso tribunale aveva ordinato la demolizione dell'ecomostro di Scala dei Turchi. Chiamateci 800 24 00 24 se siete di quelle parti, cari ascoltatori, e urlate di felicità insieme a noi per questa decisione, l'abbattimento degli ecomostri. Poi naturalmente dovranno seguire insomma i fatti agli annunci della procura, però insomma da qua si parte. E a proposito, visto che la legge è legge, ricordate che Berlusconi voleva comprare una villa a Lampedusa? Ebbene, avrebbe rischiato anche lui questo. Sequestrata la villa di Claudio Baglioni, blitz della finanza contro l'abusivismo anche qua. Sempre la procura di Agrigento ha fatto scattare i sigilli per una trentina di immobili sull'isola. Il provvedimento ha colpito anche l'abitazione, pensate, dell'ex sovrintendente ai beni culturali di Agrigento. È una cosa pazzesca, gli indagati sono 90, nell'elenco non figura Claudio Baglioni, non è indagato ma la casa è sequestrata. Le accuse formulate sono lottizzazione abusiva, violazione delle norme urbanistiche. Speriamo anche qua che poi seguano i fatti e che qualcuno di queste costruzioni abusive venga abbattuta a Lampedusa. Abbiamo ancora due segnalazioni ad Alessandria, mercatino del baratto sociale, un modo per combattere la crisi domani. Se siete di Alessandria, nella casa di quartiere di Via Verona, potrete andare, portare i vostri oggetti oppure acquistarne di oggetti usati, un'iniziativa del gruppo Pagina Sociale di Alessandria per sensibilizzare nei confronti del riciclo. In Veneto prosegue anche martedì prossimo l'iniziativa al cinema con 2 euro. Un'iniziativa voluta dalla regione insieme alla Federazione Italiana dei Cinema Dessé. Andate sui siti, cercate, sono 14 sale Dessé di cinema, di film, di circuiti alternativi che la regione finanzia, sostiene, e si può andare al cinema con 2 euro, l'iniziativa che andrà avanti anche tutti i prossimi martedì del mese di novembre. Ma iniziamo subito tra poco con la prima storia che ci porta a Macerata. Frenetiche, guarda qua, non vedo l'ora che sia università, volti diversi, grandi discorsi, e poi ti trovi già là. Tanto vedrete, con noi il mondo cambierà, sì, ma l'hai vista, chi è quella tipa là? Facce sconvolte, pianti e rivolte, domani poi si vedrà. Dimmi cosa c'è da fare per domani. Un'interrogazione, un altro compito, dai dettami Nella settimana in cui le province minacciano di spegnere i termosifoni delle scuole contro i tagli ordinati dal governo, l'universo scuola è di nuovo in fibrillazione. Andiamo a Macerata, dove il comune ha deciso di investire nel cibo di qualità nelle mense scolastiche. Una piccola scelta, una piccola decisione che però forse per chi vive lì, bambini delle scuole elementari e medie, può fare la differenza. Anzi no, forse solo le scuole elementari. Lo chiediamo a Stefania Monteverde, assessore alla scuola. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. A chi, qual è la platea di bambini interessata da questa vostra mense scolastiche a Macerata? Sono mense verdi per elementari, medie, infanzia e adesso asili nido. Ecco, insomma, quindi da 0 a 12 anni. Beh, insomma, una bella platea. Ho detto una scelta in controtendenza, non voglio negare che ci siano problemi che riguardano la scuola più grande, anche di quello di cui stiamo parlando, però noi di questo invece vogliamo parlare, partendo subito con una missione di coraggio da parte vostra, un investimento, credo anche poi economico, ci dica perché per voi intanto è così importante il cibo di qualità nelle mense scolastiche. Allora, davvero una scelta in controtendenza, sono tempi avarissimi per le risorse pubbliche e si sta risparmiando anche sulla salute dei cittadini, ecco perché è importante, perché quello che ci interessa è avere qualità, un'educazione alimentare corretta e qualità nel cibo. Questo significa aver fatto delle scelte, la scelta è questa, biologico, filiera corta, tra l'altro tra i principi nell'appalto di gara c'è anche un punteggio maggiore per i prodotti che vengono al commercio da questo solidale e dai prodotti che vengono dalle terre confiscate alla mafia. Quindi dunque si aggiunge un valore anche sociale da questo punto di vista, e poi si dà forse una mano anche alle filiere agroalimentari del biologico, sicuramente della zona, chilometro zero. Tra l'altro c'è tempo, credo, fino a lunedì, se ho letto bene, per aderire a questo bando, quindi qualcuno si può ancora candidare, produttori locali? Assolutamente sì, è ancora un bando, il 12 Macerata, ricordiamo. A Macerata, le indicazioni sono chiare, i fornitori hanno già, abbiamo fatto una sperimentazione per un anno, questo è un ulteriore anno, significa avere la possibilità per i bambini, sono 1700 bambini che consumano il pasto ogni giorno nelle nostre mense, avere la possibilità di un cibo sano, e questo è l'obiettivo. Voi vi siete, sottolineare un altro aspetto. Sì, sì, sì. Questo, che nonostante questo, la quota pasto è di 1,80 €, questo significa uno dei prezzi più bassi, almeno nel territorio marchigiano, adesso non so nel resto d'Italia, uno dei costi più bassi. Non significa dunque che il biologico è necessariamente un costo più alto. Certo, significa che c'è stato un investimento di risorse pubbliche su quello, perché ci crediamo. Ecco, questo poi glielo voglio domandare dopo la pausa del traffico. Quanto c'è anche di investimento da parte vostra, è giusto dirlo, è giusto ricordarlo, una scelta. Ogni comune ovviamente si dà delle priorità anche di spesa. D'altra parte il cibo di qualità non può costare, credo, meno del cibo di qualità minore. Prima però le vorrei chiedere in 30 secondi se vi siete ispirati a qualcuno, a qualcosa, oppure se diciamo è tutta farina del vostro sacco maceratese. Ci siamo ispirati al principio del biologico, l'idea che non a un comune, non ad altre esperienze, ma la convinzione che c'è comunque una scelta di qualità. Devo dire anche una cosa, che ereditiamo una bella tradizione di impegno dei genitori e delle famiglie nelle scuole, che da tempo fanno un lavoro di ricerca anche grazie al GAS, al gruppo di acquisto solidale, che a Macerata è molto molto attivo. Traffico, Stefania Monteverde, assessore alla scuola a Macerata, resti con noi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Macerata, cibo biologico a chilometro zero nelle mense scolastiche. All'assessore Stefania Monteverde vogliamo chiedere anche questo: quanto c'è di investimento da parte vostra su una scelta del genere? Ci ricordava che i pasti hanno un costo basso, però visto che si investe sul cibo di qualità, qual è il costo di questa operazione? Cioè, avete investito, oppure il fatto per esempio di scegliere il chilometro zero, cioè la filiera corta, fa anche risparmiare qualche cosa? Fa anche risparmiare rispetto alla possibilità. Noi paghiamo il pasto, la mensa, mettiamo ci costa 1.200.000 euro. Questo significa che comunque c'è un grosso impegno in termini di personale, in termini di servizio, è un servizio pubblico e siamo convinti che va fatto di qualità, dunque è un'opportunità. Benissimo, insomma, Macerata e produttori del biologico di quest'area, siete ancora in tempo fino a lunedì ad aderire al bando, a questa iniziativa del comune che punta sul cibo di qualità nelle mense scolastiche. Saranno felici tutti i bambini. Grazie all'assessore Stefania Monteverde per essere stata con noi. Magari faremo un bilancio più avanti e vedremo come sta andando. 800 24 00 24. Voi da che parte state? Dalla parte del cibo economico o di quella del cibo di qualità? Can I take your order, please? Qualcuno avrà riconosciuto forse i nomi di alcune note e catene di fast food all'inizio di questa canzone, Fast Food Rockers. Chi la ricorda? Chi la conosce? Nessuno, credo. Fast Food Song. Ebbene, perché parliamo proprio di fast food, visto che siamo partiti dal cibo di qualità nelle mense scolastiche di Macerata. Ci spostiamo a Brescia, dove da un anno circa, anche qua un po' in controtendenza rispetto alle tendenze del commercio, ha aperto un fast food biologico, si chiama Pollicino Bio, forse in via Sant'Eufemia a Brescia, forse i bresciani sanno di cosa stiamo parlando. Salutiamo Piero Mottarella, titolare di questa Pollicino Bio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Può dire, a un anno di distanza circa dall'apertura di questo vostro negozio, che tra l'altro si trova di fronte a McDonald's, ecco perché la guerra dei fast food, di aver vinto una scommessa, cioè lanciare un'attività commerciale in un periodo di crisi puntando su una nicchia come quella del cibo di qualità, cibo biologico? Beh, possiamo dire tranquillamente che il successo sta piano arrivando. Non possiamo di certo dire di aver già superato la china totalmente, ma sicuramente c'è un ottimo apprezzamento per quanto stiamo facendo. Clientela è sempre più interessata e di conseguenza siamo molto, molto contenti di come stanno andando le cose. Ecco, ma la clientela, no? Uno si immagina cibo di qualità, cibo biologico, adulti o cose così, insomma gente magari col portafogli non proprio sgonfio, e invece voi siete in centro, in città, davanti a un McDonald's passano un sacco di ragazzini. Qual è la vostra clientela, il pubblico che attirate di più? Guardi, c'è una clientela estremamente eterogenea, estremamente variegata. Si parte dal ragazzino che chiede magari anche ai genitori di essere portato da Pollicino invece che, fino a famiglie, gruppi, un po' come succede in tutti i fast food in realtà. Quello che noi abbiamo cercato di trasmettere è semplicemente un senso di qualità all'interno di un processo ristorativo che fosse di basso prezzo, se lo possiamo definire così, come quantomeno si presentano in fast food. Noi ci siamo chiamati sin dall'inizio fast good, che voleva dire che volevamo essere sufficientemente veloci ma soprattutto buoni. La scelta di prodotti biologici, quindi a filiera molto corta, con verdure, carni, polli, eccetera, eccetera, eccetera, tutto di qualità, sta dando dei notevoli risultati. Quindi c'è, diciamo che la clientela è molto mista comunque, non è, affaristi, pausa pranzo, asporti, take away, si manifesta un po' di tutto. Fast good, non è male. Il cibo che voi proponete, la domanda che ho fatto prima anche all'assessore di Macerata, che non so se ha sentito, nelle mense scolastiche di questa città, grazie all'iniziativa, all'investimento del comune, ci saranno cibi biologici e a chilometro zero. Si deve investire un po' di più, cioè il cibo di qualità come quello che proponete voi da Pollicino Bio costa un po' di più, quindi alla fine si spende un po' di più, oppure piano piano, visto che la filiera si sta allargando, non è più così? Tra l'altro io 800 24 00 24, cari ascoltatori, ve la facciamo anche a voi questa domanda: preferite il cibo economico o il cibo di qualità? Intanto a lei, Mottarella, di rispondere. Allora, intanto c'è assolutamente da dire che il cibo biologico qualche euro in più probabilmente lo costa. È ovvio che bisogna fare delle valutazioni anche su scala più o meno larga o più o meno corta. Per quanto riguarda per esempio le verdure, alle volte si spende meno col cibo biologico di non quanto si spenda con altre situazioni. Cioè, addirittura, come mai? Sì, ma perché probabilmente stanno nascendo un sacco di piccoli coltivatori, piccoli orti, che se sì, ne parlavate anche stamattina, diventano molto interessanti, che poi si collegano e si creano una rete vendita e quindi si passa direttamente dal contadino al ristorante invece di passare attraverso i vari commercianti, e quindi alla fine delle filippe si porta... Qualche costicino si può tagliare, si può risparmiare. Si può tagliare decisamente. Non ce l'abbiamo con chi lavora nei supermercati, intendiamoci, mi dispiace perché sembra che... però poi alla fine conta anche il risultato finale, è un risultato che valutiamo sicuramente con la qualità del cibo e anche con il prezzo. Se lei ci conferma che delle verdure di qualità possono arrivare a costare addirittura meno che nei canali tradizionali, beh, insomma, è una doppia buona notizia. È una doppia buona notizia, sì, sono perfettamente d'accordo con lei. Questo non significa che tutto ciò che è biologico costa meno, perché ci sono assolutamente dei prodotti che sono decisamente più costosi. Se prendiamo il pollo come esempio, in questo momento costa decisamente di più di un altro, ma la qualità del prodotto ripaga enormemente il fatto che costi qualche cosa in più, insomma, alla fine. Quindi io credo che ci si possa oggi presentare sul mercato con dei prodotti biologici, con dei prodotti assolutamente qualitativi come prodotto di base, a dei prezzi che sono veramente di poco superiori a quelli che sono i tradizionali fast food o quelli che sono i tradizionali. E andiamo pareggiando, insomma, siamo partiti che il cibo biologico costava molto di più, un po' di più, adesso ci siamo lì e prima o poi pareggeremo. Senta, ci dica la verità, però il fatto di mettersi, di posizionarsi di fronte al McDonald's è stata da parte vostra una bella furbata? Avete ricevuto un sacco di interesse su questo e anche un po' di pubblicità? Allora, devo ammettere che la cosa è nata casualmente, perché abbiamo rilevato questo locale che era già esistente. Il fatto di trovarci di fronte a McDonald's è stata una situazione un po' controversa. Da una parte estremamente positiva, perché genera un grandissimo passaggio e quindi diventa un veicolo pubblicitario decisamente interessante. Dall'altra mi pare di essere un po' Golia che lotta contro il gigante, quindi... anche qui ci sono, cioè, la situazione va vista in una duplice prospettiva. È stata casuale, se devo ammettere. Cioè, non rivendica, diciamo, la genialità di questa decisione, però adesso ne gode e comunque tutti i benefici. Grazie a Piero Mottarella, titolare di Pollicino Bio. Siamo a Brescia, cibo di qualità. E tra l'altro mi diceva che le stanno chiedendo anche di esportare questa iniziativa e vedremo se c'è qualcuno sì, che vuol copiare questo modello. Intanto grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. 800 24 00 24. Gianluca ci ha chiamato dalla provincia di Milano. Gianluca, buongiorno. Buongiorno. Niente, volevo fare un piccolo intervento in controtendenza, sì, nel senso che va bene privilegiare le produzioni sotto casa, il biologico, ci mancherebbe, però non dimentichiamo che l'Italia è un grande produttore ed esportatore di frutta, quindi ma che applicare... c'entra? In che senso le due cose sarebbero in qualche modo nel senso che ormai c'è un po' la nouvelle vogue di comprare, non so, solo il chilometro zero, quando l'Italia esporta i propri frutti all'estero. Sì. Vabbè, dove sta la contraddizione? Noi siamo un paese che produce, per questioni sì, climatiche e di territorio, cibo di qualità, e quindi è giusto consumarlo in Italia a chilometro zero, il nostro, e poi esportarlo dove sono meno fortunati di noi, all'estero. Certo, però non puoi comprare, comunque spingere solo le produzioni italiane, perché sennò entriamo in una logica di contraddizione, mi sembra abbastanza lampante. Perché la cosa, contraddizione? E perché sembra una logica autarchica quando noi esportiamo cibo e importiamo altre cose, il commercio da questo punto di vista si è evoluto, caro Gianluca, non è che siccome... non importiamo cibo, non lo possiamo esportare. Vorrà dire che prenderemo auto tedesche, mi perdoneranno quelli della Fiat, o altre cose. Grazie comunque Gianluca, il senso del suo intervento era comunque chiaro. Non so se gli ascoltatori sono d'accordo. 800 24 00 24. Adesso però ci sono gli aggiornamenti del giornale radio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora ben ritrovati cari ascoltatori. Intanto subito una buona notizia: abbiamo superato quota 1000 mi piace sulla pagina Facebook del programma Si può fare trattino Radio 24, un programma nato quest'anno, una scommessa anche per certi aspetti di Radio 24. E siamo partiti oggi dal cibo di qualità chilometro zero biologico nelle mense scolastiche del comune di Macerata, grazie a un investimento del comune nella settimana in cui le province hanno ventilato di tagliare insomma un po' tutto, anche i riscaldamenti, di spegnerli nelle scuole. Il mondo della scuola è di nuovo in fibrillazione, insomma i problemi non mancano, però ci sono anche istituzioni locali, comuni che tentano di fare scelte positive in controtendenza. Poi ci siamo spostati a Brescia, dove da un anno Pollicino Bio è un fast food di cibo biologico, e allora di questo stiamo parlando questa mattina, 800 24 00 24, sentendo anche voi ascoltatori: cibo economico o cibo di qualità? Fabio da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Io chiamavo perché stavo sentendo prima il discorso sul chilometro zero e avendo un'esperienza diretta, nel senso che anch'io un anno e mezzo fa ho avviato a Milano un'attività di distribuzione a domicilio di prodotti biologici di qualità, con anch'io l'obiettivo di prendere prodotti locali. Diciamo che ho sperimentato sul campo come, diciamo, il prodotto locale sia molto spesso molto difficile da reperire, molto spesso è limitato nella gamma, quindi a Milano il chilometro zero letteralmente è un po' difficile, ma anche facendo diciamo il chilometro 100 ci sono comunque dei vincoli, diciamo, operativi, quindi di approvvigionamento, che sarebbero limitare tantissimi i costi. Ci sono dei vincoli nella gamma di prodotti disponibili, perché da adesso a febbraio dovremo mangiare... Certo, però scusi, la interrompo, poi la faccio proseguire, ma è chiaro che se vogliamo mangiare cibo di qualità, cibo di stagione, non è che possiamo avere le fragole adesso o altre cose, altre balle di questo tipo, bisogna mangiare cavoli. Adesso zucche, cavoli, si apre la stagione delle zucche e non so quando finisce, ahimè, però è così. No, è assolutamente così. C'è da dire che io trovo che il mercato sia ancora molto poco pronto rispetto a queste cose. Però questo c'è anche un limite, ci sono anche due limiti che ho visto. Il primo è che anche i produttori locali comunque hanno una gamma molto ridotta di referenze, di prodotti diversi, diciamo, per cui anche loro spesso fanno arrivare molto da fuori e poi lo presentano, diciamo, nel contadino. Ai, questo non dovrebbero farlo. Il contadino che ha 20 referenze, diciamo che molto spesso è abbastanza impossibile, no? Fabio, tagliamo la testa al toro. Lei ha provato ad aprire un'attività su questo, tra l'altro, quindi dimostrando che si può fare anche economia e creare lavoro su questo. Oggi però lei si occupa d'altro o va avanti? No, io continuo a fare questo, sono dovuto scendere a dei compromessi, diciamo, che alcuni prodotti, dove posso, dove sei sostenibile, li prendo localmente. Altri prodotti però li prendo da fuori, ma anche per un motivo: è molto più, anche come impatto ambientale probabilmente, è molto più efficiente prendere dei prodotti dove il terreno ha una resa superiore, quindi che ne so, piuttosto che coltivare le carote a Milano, probabilmente è molto più efficiente andare a prendere le carote in Abruzzo. Fabio, comunque la sua alla fine era partita in tono un po' critico, ma è invece la conferma che si può fare anche questo. Lei lo sta facendo, i compromessi, la vita è piena di compromessi, direi che non c'è niente di male, basta magari non truffare i consumatori, come diceva lei, proponendo cose che vengono magari da lontano, dall'estero, come chilometro zero. Basta dire che vengono da altre zone. Grazie per questa chiamata, 800 24 00 24. Sentiamo un altro ascoltatore, Alessio dalla provincia di Bergamo, tutti del nord. Buongiorno. Buongiorno. Io sono, diciamo, un piccolo produttore biologico, ma in particolare ho chiamato perché sono anche insegnante in una scuola agroalimentare. Sì. Quindi lei piazza i suoi prodotti nelle mense della scuola, no? Sarebbe un bel business. No, dico, magari lei piazza i suoi prodotti nella mensa della scuola facendo colpo grosso. No, mi piacerebbe, ma non glielo fanno fare. Non prevede neanche la mensa, quindi. Niente. E poi la mia azienda dalla scuola è molto distante, quindi non potrei neanche. Cosa però voleva dire, Alessio? Il discorso che mi interessava, avevo acceso da poco la radio, però il discorso che mi interessava era questo. Che giusto ieri discutevo con un alunno e discutevo del fatto che noi come anche agricoltori abbiamo secondo me la responsabilità di alimentare le persone che ci stanno intorno, e secondo me è importante alle persone che ci stanno intorno dare un alimento di qualità che crei salute alle persone. E niente, questo era un po' il mio intervento, volevo essere. Quindi secondo me è importante, è vero, più un alimento di qualità che non di... il prezzo poi. Ecco, stiamo attenti alla qualità e il prezzo viene di conseguenza. Grazie Alessio, sentiamo in rapidissima successione anche Claudio che ci chiama da Reggio Emilia, 800 24 00 24, buongiorno. Sì, buongiorno, io volevo criticare un po' l'approccio che avete avuto, perché secondo me definire il cibo di qualità solo il cibo biologico non è corretto, perché oggi ci sono dei cibi che sono ugualmente di qualità pur non essendo biologici, anche perché non c'è più rispetto al passato quella grossa differenza fra agricoltura convenzionale, che ormai non esiste più, e agricoltura biologica, perché ormai tutta l'agricoltura è integrata e quindi anche le grosse catene di distribuzione, io non sto difendendo i supermercati, anzi assolutamente, io sono sempre dalla parte degli agricoltori, però ci sono una serie di controlli, di disciplinare da rispettare, per cui è di qualità anche il cibo che non è biologico. Sì, questo, quindi, devo dire la verità, è sicuramente vero, Claudio. Diciamo che le certificazioni biologiche possono dare un elemento in più di qualità. Ma poi ho detto che sia migliore il cibo biologico. Ma è scusi Claudio, stia tranquillo, stia calmo. Ho detto che possono dare un elemento in più di qualità, non che sono migliori. È un criterio di valutazione della qualità. Per cui sappiamo che non ci sono schifezze chimiche, che sicuramente bene non fanno alla lunga. Dopodiché ci possono essere cibi buoni, e poi la qualità è un concetto che ognuno può tirare dove gli pare. Cibi buoni che non sono biologici, su questo non c'è assolutamente dubbio, non è che gettiamo la croce addosso a chi non fa il biologico. Penso, anche per esperienza diretta, non mia ma di persone che conosco, che la strada del cibo biologico è una strada ancora più in salita, è una scommessa ancora più alta, e che può avere dei vantaggi indubbi. Claudio, sì, non so se l'ho convinta, sicuramente no, ma sì, non era però, questo lo scopo. Però se posso aggiungere, è un po' anche un fattore psicologico. La gente tende a convincersi che biologico sia per forza migliore. Va bene Claudio, questo l'ha già detto, grazie. 800 24 00 24, più tardi ancora qualche vostro intervento, cari ascoltatori. Probabilmente deve essere strada, la vita lavorata, per il tempo e il denaro e la casa costruita, come un ponte su una cascata, un ponte su una cascata, e quel che vedi dai finestrini di questa macchina usata. È difficile capire cos'è, ma deve essere strada. Quindi deve essere strada, ci deve stare chi ci cammina, e chilometri di passeggiata, e poche case sulla collina, e deve esserci acqua che piove, ci deve essere acqua che piove, per il fiume che porta al mare in fondo a questa vallata, che da qui non si vede granché, ma deve essere strada. E parliamo di una strada, sulle note della canzone del maestro De Gregori, che è tornato con un nuovo disco, e questa è la canzone che credo dia anche il titolo all'album. Una strada di Bari, via Argiro. I baresi forse staranno già intuendo di cosa stiamo parlando. Una strada pedonalizzata circa un anno fa, dove però si è aperto un dibattito nella città: tenere o non tenere la pedonalizzazione, riaprire al traffico come chiedono alcuni, tra cui sembra forse anche il presidente della Confcommercio barese Ambrosi, che lamenta disfunzioni, degrado di questa strada chiusa al traffico. E invece c'è chi, e questo ci è piaciuto, si è armato di penna e carta, ha scritto lettere, appelli per non far ritornare le macchine su questa strada, una strada del centro dove insomma la sperimentazione della pedonalizzazione è piaciuta, tra gli altri anche ad Achille Cipponi, che è titolare del negozio di abbigliamento Sadler. Non vogliamo fare pubblicità, ma andava detto. Buongiorno Achille. La ringrazio, buongiorno. Lui, insieme anche a cittadini, residenti e altri commercianti di questa strada, via Argiro a Bari, si è messo di mezzo e ha detto no, non dobbiamo tornare ai vecchi santi, vogliamo che la gente vada in giro a piedi, in bicicletta, possa passeggiare tra i negozi, un'esperienza di una vita più sostenibile sicuramente, dove l'auto è un lontano ricordo. Achille, perché ci tenete tanto, perché vi state mobilitando? Ci stiamo mobilitando perché l'esperimento è piaciuto a tutti, e ormai sono 11 mesi, abbiamo provato anche a fare un esperimento durante la stagione passata, nel mese di maggio, e abbiamo portato gli orti in città, abbiamo fatto un accordo con tutti i vivaisti della regione, che hanno fatto una presentazione eccezionale arredando a verde completamente i set isolati della strada. Deve essere stata una meraviglia, immagino. Tra l'altro Bari è una città già bella di suo, immagino questa strada tutta con alberi, con piante, e doveva essere un vero spettacolo. Piante, cioè gli ulivi pugliesi, certo, che sono stati portati in strada, in città, sono stati veramente accolti in maniera incredibile, tutti i bambini anche venivano per vedere gli orti, quali fossero perché le piante che venivano. Vorrei dire una cosa agli ascoltatori, che magari possono pensare che si tratta di storie minori o insomma, ma chi se ne frega delle piante in via Argiro a Bari, però l'esperienza di questo tipo di piacevolezza è una cosa che si fa magari inconscia, uno non se ne rende neanche conto, passeggia in una strada piuttosto che nell'altra, però c'è un reale piacere a stare in mezzo al verde, a stare in mezzo agli alberi, soprattutto se poi siamo in città e quindi abbiamo anche tutti i vantaggi, le facilitazioni. Il vostro progetto è proprio questo, quello di creare queste atmosfere, queste positività. Però Achille, adesso qualcuno mette in discussione questo progetto, poi lei finirà di raccontarci tutta la storia, perché si parla di degrado, il progetto che non è finito. Cosa c'è che non va agli occhi, per esempio, del presidente di Confcommercio Bari? Beh, puoi immaginare, la burocrazia ha dei tempi, viaggiano in maniera diversa da quelli delle attività imprenditoriali. Noi siamo quelli del fare, devono necessariamente mettere in piedi quello che è possibile fare per rendere appetibile a tutti una via come la nostra, come tutte quante le vie comunque della nostra città. Purtroppo la burocrazia viaggia con dei tempi leggermente diversi, siamo in attesa di un progetto di arredo architettonico e di un rifacimento del manto stradale, per cui un po' la polemica sorge dal fatto che la strada ancora sia rimasta una carreggiata con delle fioriere che la chiudono al traffico, quindi forse un concetto leggermente diverso, più chiusura al traffico che pedonalizzazione vera e propria. Ciò nonostante, siccome ci sono stati degli altri esercenti, in particolar modo esercenti che operavano nel settore del bar, dell'alimentazione, che hanno voluto investire con tavoli, arredo urbano privati, abbiamo comunque reso la strada un salotto e quindi c'è la possibilità di venire, di farsi una passeggiata, di restare, di potersi godere le vetrine, le merci, però in assoluta tranquillità, senza il problema delle auto in centro. Per far questo abbiamo anche messo in piedi ci siamo quasi autotassati, ma abbiamo deciso di comprare delle biciclette tutti gli operatori della strada e delle altre strade, nasceva anche da Via Sparano l'esigenza, di mettere biciclette ad uso degli avventori che potessero girare per il centro, incominciando a mettere in piedi. Ma questo è un progetto o è una realtà, Achille? No, è una realtà. Cioè, per cui arrivando in via Argiro si troveranno delle rastrelliere, oppure bisogna andare nei negozi, come si fa? Del centro, sì. E in particolar modo su via Sparani, su via Argiro, 200 biciclette in questo momento. E non sono fatte dal comune, sono finanziate da voi? Prego? Non sono messe lì dal comune, ma finanziate da voi? Sì. Il cosiddetto bike sharing. Stiamo cercando ora di trovare degli accordi con i tassi per poter avere delle tariffe agevolate, per evitare, cioè per trovare comunque dei metodi alternativi di viabilità, di sostenibilità. Tra l'altro, Achille, resti con noi, facciamo una pausa per il traffico a proposito di viabilità alternativa e poi ci parlerà anche, diciamo, delle esternalità positive che si sono create, perché prima vi hanno chiesto di esportare questo progetto di pedonalizzazione anche altrove e poi ci sono attività commerciali nuove che nascono proprio nelle vie pedonalizzate di Bari. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E se quindi deve essere strada, ci deve stare chi ci cammina. E chilometri di passeggiata, e poche case sulla collina. E deve esserci acqua che piove, ci deve essere acqua che piove. Per il fiume che porta al mare in fondo a questa vallata. e da qui non si vede granché, ma deve essere strada. Di nuovo con Achille Cipponi, titolare di un negozio di abbigliamento di via Argiro a Bari, che ci sta spiegando perché chiudere le strade come questa al traffico delle automobili ci fa bene, ci fa stare bene. Un progetto che loro stanno difendendo con le unghie da chi minaccia invece di voler far tornare le auto in questa strada, dove tra l'altro, e sicuramente non è un caso, anche grazie a questo progetto sono nati, lei mi diceva, due nuovi almeno attività commerciali, due bar, Achille. Sono nate in questi 11 mesi, si sono aperte alla strada, hanno portato tavolini, hanno arredato a due altri isolati, ora su ogni isolato esiste un bar e quindi comunque riescono a fare attrattiva, anche se manca, come le dicevo prima, ancora qualcosa. Nel momento in cui sarà definita completamente la struttura, probabilmente la strada diventerà ancora più accogliente e riteniamo che insomma sarà fruita ancora da un maggior numero di persone. Senta, ma un'ultima cosa, Achille, è vero che vi hanno chiesto di esportare questo progetto, di farne un modello anche altrove? Ma no, questo è un percorso che è già iniziato dal 2004, da quando è cambiata l'amministrazione, si è cercato insieme di estendere la pedonalizzazione a tutto il quartiere Murattiano, era una prova, una sperimentazione che è stata avviata a dicembre di quest'anno, prima ci sono stati park and ride in zone limitrofe per poter fare parcheggio di scambio con il centro, quindi si è alleggerito il carico di traffico, poi sono state fatte anche delle analisi per vedere se la chiusura al traffico potesse appesantire in maniera particolare le altre strade, perché Bari ha una struttura un po' particolare fatta a scacchiera e si è rilevato che il carico di traffico era assolutamente sostenibile. Poi il tutto è coinciso anche con la crisi e quindi c'è stata anche una diminuzione di traffico automobilistico, e il che diciamo ha giocato un po' a nostro favore, perché non c'è stato nessun sovraccarico nelle zone limitrofe, è veramente minimo il sovraccarico. E va bene, questo grazie Achille Cipponi da Bari, questa era la storia di via Argiro che non si tocca, la pedonalizzazione di questa parte della città. 800 24 00 24, abbiamo ancora un'ascoltatrice che ci chiama oggi dalla provincia di Lecco, Sara, forse per parlare di cibo economico o cibo di qualità? La storia da cui siamo partiti oggi. Buongiorno Sara. Ecco, io volevo porre questa questione. Da quando è nata la nostra bimba, pochi mesi fa, siamo molto più attenti al biologico, a scegliere il biologico. È stata lei che ci ha fatto un po' cambiare le abitudini in meglio. Però quello che osservo è che i grandi supermercati, ancora una volta, sono molto concorrenziali. Perché il negozio magari del biologico, dove trovi anche dei consigli, dei supporti nella scelta, quindi migliore da questo punto di vista, però specifico sul biologico, ha dei prezzi proibitivi, almeno per noi. Quindi... E allora facciamo un appello a tutti a che i prezzi si abbassino, soprattutto, perché altrimenti è una scelta che diventa insostenibile economicamente per alcune famiglie, anche se le storie di cui abbiamo parlato prima, Macerata e Brescia, dimostrano invece che a volte è possibile anche coniugare economia e cibi biologici. Grazie Sara. Adesso salutiamo il nostro prossimo ospite che proprio in chiusura di trasmissione ci ha raggiunto, Fabrizio Savani, consigliere del Movimento 5 Stelle del Comune di Parma, col quale volevamo e parleremo adesso, però anticipiamo solo l'argomento. Buongiorno intanto Fabrizio. Buongiorno a tutti. L'argomento importantissimo è questo, il consumo di suolo, bisogna fermarsi con la cementificazione, c'è anche un disegno di legge del ministro Catania importante su questo. A Parma, visto che un rapporto di Lega Ambiente sul passato vi mette in maglia nera per il consumo di suolo in Italia, lei si è fatto promotore di una mozione in comune contro questo. Sì, è vero, e ahimè purtroppo in questi ultimi anni Parma è stata violata nell'ambiente in quanto ha assistito a una cementificazione selvaggia, quindi il territorio usato a mera speculazione edilizia. E tenga presente che appunto il rapporto di Lega Ambiente dice che nel biennio 2005-2007 si sono costruiti qualcosa come 160 campi di calcio e nell'immaginario collettivo. Una cosa impressionante, veramente impressionante. È impressionante. Fabrizio, purtroppo ci siamo collegati tardi, però l'impegno che prendiamo, se anche lei è d'accordo, è di risentirci settimana prossima per approfondire questo argomento. Va bene? Volentieri, volentieri. Perché purtroppo ci siamo mangiati il tempo, non ce ne siamo accorti, però questo argomento è fondamentale. Una mozione al Comune di Parma contro il consumo di suolo. Staremo a vedere. Io intanto ringrazio Franco Piantanini in redazione, Giorgio De Luca in assistenza in redazione oggi per la diretta, Paolo Corleoni in regia, anche da Alessio Maurizi un augurio di buon sabato. Ci sentiamo domani a mezzogiorno. Sì!